Non penso di dovervi raccontare nulla a riguardo. È un segreto tanto quanto lo sono i vostri misteri. Molto bene, mi hai detto abbastanza da farmi agire di conseguenza, cosa che farò senz'altro. Solo l'altro giorno ho promesso allo Squire che l'avrei informato se avessi sospettato qualcosa, un qualche amoreggiamento, un legame, e figuriamoci un fidanzamento, tanto tra uno dei suoi figli e le nostre ragazze. Ma questo non è un fidanzamento. Lui non ha voluto intenderlo così. Se solo mi ascoltaste, vi direi tutto. Però spero proprio che non andrete a spifferare la cosa allo Squire e a tutto il mondo. Cinzia ha pregato che non si venga a sapere. È solo la mia disgraziata franchezza ad avermi cacciata in questo pasticcio. Io non riesco mai ad avere segreti con le persone che amo. Devo dirlo allo Squire. Non ne farò parola con nessun altro. E tu ritieni davvero che sia stato coerente con la tua usuale franchezza origliare e non parlare poi con me? Ti avrei potuto spiegare allora che l'opinione del dottor Nichols era totalmente opposta alla mia e che lui credeva e crede che i disturbi per i quali l'ho consultato a proposito di Osborne sono probabilmente tali da consentire a chiunque di sopravvivere, sposarsi e avere figli. Se articolando questo discorso Mr. Gibson usò qualche abilità per nascondere la sua reale opinione, Mrs. Gibson non fu abbastanza scaltra da scoprirlo. Era sconcertata e Mr. Gibson godette in quel suo sconcerto. Lo fece tornare quasi al suo solito umore. Analizziamo questa disdetta, che vedo tu consideri tale, disse. No. Non proprio una disdetta, precisò la donna. Ma di certo, se avessi conosciuto l'opinione del dottor Nichols, esitò. Vedi dunque il vantaggio di consultarti sempre con me? Continuò lui serio. Ora Cinzia è fidanzata. Non è fidanzata, ve l'ho già detto. Lui non ha consentito che non si considerasse un fidanzamento da parte di Cinzia. Ottimo! Legato in una relazione amorosa con un ragazzo di 23 anni che non possiede altro che una borsa di studio e la possibilità di ereditare una proprietà gravata dai debiti, senza neanche una professione e lontano per 2 anni. E io domani devo andare a riferire tutto a suo padre. Oh, caro, vi prego, ditegli che se disapprova deve solo esprimere la sua opinione. Non credo che in questa vicenda tu possa agire lasciando fuori Cinzia. E se non vado errato, Cinzia avrà la sua ferma volontà sull'argomento. Oh, non penso che di lui le importi granché. Non è tipo da innamorarsi in continuazione e non prende le cose molto a cuore. Ma naturalmente non bisogna fare niente di fretta. 2 anni di assenza concedono un sacco di tempo per riflettere. Eppure un attimo fa eravamo minacciati dalla consunzione e dalla morte precoce se i sentimenti di Cinzia fossero stati ostacolati. Oh, cara creatura. Mi ricordate sempre delle più sciocche parole. Può essere, sapete, il povero caro Mr. Kirkpatrick soffriva di tisi e Cinzia potrebbe averla ereditata. È un grande dolore e potrebbe risvegliare focolai latenti. A volte ho tanta paura, ma direi che non è probabile, perché non credo che prenda le cose tanto a cuore. Dunque, io sono totalmente libero di rompere il legame, agendo per procura se lo Squire disapprova. La povera Mrs. Gibson era in difficoltà a questa domanda. No, disse alla fine, non possiamo scinderlo. Di certo Cinzia non vorrebbe, specialmente se pensasse che altri hanno agito invece sua. E lui è molto innamorato. Vorrei che si trovasse lui al posto di Osborne. Vuoi che ti dica cosa farò? Riprese Mr. Gibson con molta serietà. Al di là di come la faccenda sia stata gestita, qui abbiamo 2 giovani molto innamorati l'uno dell'altra. Uno è il miglior giovanotto che abbia mai respirato, l'altro è una ragazza molto bella, vivace e gradevole. Il padre del giovanotto deve sapere ed è molto probabile che sbraiterà e si opporrà, perché non c'è dubbio che si tratta di una relazione molto imprudente se si considera l'aspetto economico. Ma lasciamo che siano costanti e pazienti. E una ragazza non potrebbe ricevere un dono migliore. Vorrei solo che Molly avesse la stessa fortuna, che incontrasse un uomo simile. Mi impegnerò per lei, davvero, promise Mrs. Gibson, sollevata dal cambiamento del suo tono di voce. No, non lo farai. Questa è una cosa che proibisco. Non voglio assolutamente che ti impegni per Molly. Va bene, caro, Non vi arrabbiate. Sapete, avevo proprio paura che stesse per montare in collera. Sarebbe stato inutile, commentò lui, cupo, alzandosi come per chiudere la discussione. Sua moglie era fin troppo lieta di darsi alla fuga. Quel colloquio tra coniugi non era stato soddisfacente per nessuno dei due. Mr. Gibson era stato costretto a fronteggiare, a riconoscere il fatto che la moglie aveva scelto un modello di condotta molto differente da quello che lui aveva rispettato per tutta la vita e che sperava di aver insegnato alla propria figlia. Era più infastidito di quanto volesse manifestare, perché alla sua irritazione partecipava un tale senso di colpa da indurla a tenere per sé quel sentimento, a rimuginarci sopra e a permettere che una certa sospettosa insoddisfazione nei rispetti della moglie crescesse nella sua mente e si estendesse pian piano anche all'innocente Cinzia. Il suo atteggiamento verso la madre e la figlia assunse allora una certa brusca severità, che prese decisamente alla sprovvista almeno la seconda. Ma in quella presente occasione egli seguì la sposa di sopra in salotto e si congratulò gravemente con l'attonita Cinzia. «Mamma, ve l'ha detto!» disse, scoccando un'occhiata indignata all'indirizzo della madre. «Quasi non si può definire fidanzamento e noi tutti ci siamo impegnati a mantenere il segreto, la mamma tra gli altri. Ma mia carissima Cinzia, non potevi certo aspettarti, non potevi certo desiderare che tenessi nascosto qualcosa a mio marito», gemette Mrs. Gibson. «No? Forse no? In ogni caso, signore», riprese Cinzia, voltandosi verso di lui con graziosa franchezza, «sono contenta che lo sappiate. Per me siete sempre stato un amico gentilissimo e direi che vi avrei informato io stessa, ma non volevo parlarne. Vi prego, deve comunque restare un segreto. In verità, quasi non è un fidanzamento. Lui arrossì e un po' si illuminò per quell'eufemismo che implicava che c'era solo un lui presente nei suoi pensieri in quel momento. Non ha consentito che mi vincolassi con una promessa fino al suo ritorno». Mr. Gibson la guardò serio, insensibile ai suoi modi insinuanti, che per un istante gli ricordarono troppo intensamente quelli della madre. Poi le prese la mano e disse, piuttosto severo: «Mi auguro che tu sia degna di lui, Cinzia, perché hai davvero conquistato un premio. Non ho mai conosciuto un cuore più caldo e più sincero di quello di Roger e l'ho frequentato sin da quando era un ragazzino, sia quando è diventato un uomo». Molly stava per ringraziare suo padre ad alta voce per questa testimonianza del valore di colui che era assente, ma Cinzia si imbronciò leggermente prima di fargli un sorriso. «Non siete un lusingatore, Mr. Gibson?» disse. «Immagino che lui mi ritenga degna, e se avete una così alta opinione di lui dovreste rispettare il giudizio che ha di me». Si ambiva a stimolare un complimento, rimase delusa, perché Mr. Gibson lasciò cadere la sua mano con noncuranza e andò a sedersi in una poltroncina accanto al fuoco, lo sguardo perso nei tizzoni ardenti come se sperasse di leggervi il futuro. Molly vide gli occhi di Cinzia riempirsi di lacrime e la seguì dall'altra parte della stanza, dove lei si era recata per cercare della merceria. «Cara Cinzia», fu tutto ciò che disse, ma le strinse la mano mentre cercava di aiutarla nella ricerca. «Oh, Molly, voglio molto bene a tuo padre. Cosa le induce a parlarmi così stasera?» «Non lo so», rispose Molly. «Forse è stanco». La loro attenzione fu sviata da quella conversazione da un richiamo di Mr. Gibson. Egli si era ridestato dai propri pensieri e ora si stava rivolgendo a Cinzia. «Spero non lo considererai la violazione di un segreto, Cinzia, ma io devo riferire allo Squire ciò che è accaduto oggi tra te e suo figlio. Mi sono legato a lui con una promessa. Egli temeva, e a questo punto è meglio che ti dica la verità, egli temeva, enfasi sulla seconda parola, che si stesse verificando qualcosa del genere tra i suoi ragazzi e una di voi due. Solo l'altro giorno io gli ho assicurato che non esisteva niente di simile e gli ho detto allora che l'avrei informato immediatamente, non appena avessi ravvisato qualche sintomo». Cinzia appariva estremamente infastidita. «È l'unica cosa su cui ho richiesto un accordo, il segreto». «Ma perché?» domandò Mr. Gibson. Posso capire che tu non desideri renderlo pubblico nelle attuali circostanze, ma si tratta delle relazioni più strette da entrambe le parti. Di sicuro non puoi opporti a questo. Sì, invece, dichiarò Cinzia. Avrei voluto che nessuno lo sapesse, se avessi potuto impedirlo. Sono quasi certo che Roger lo dirà a suo padre. No, non lo farà, ribatte Cinzia. Gliel'ho fatto promettere e penso sia uno che rispetta le promesse, aggiunse con uno sguardo alla madre, la quale, sentendosi in disgrazia sia nei rapporti con il marito che con la figlia, stava giudiziosamente in silenzio. Beh, in ogni caso, la faccenda sarà comunicata da lui stesso con molta più grazia, dunque gliene darò l'opportunità. Non tornerò ad Hamley Hall fino alla fine della settimana. Per allora Roger potrà aver scritto e informato suo padre di persona. Cinzia frenò la lingua per un po', poi disse con dispetto e lacrime: la promessa di un uomo è dunque quella di calpestare il desiderio di una donna, è così? Non vedo alcuna ragione per cui non dovrebbe essere così. Volete fidarvi delle mie ragioni quando vi dico che, se si verrà a sapere, la cosa mi causerà moltissima angoscia? Lo affermò in tono così supplichevole che se Mr. Gibson non fosse stato così profondamente seccato e dispiaciuto per via della precedente conversazione con la moglie, avrebbe ceduto. Ma per come stavano le cose, egli replicò freddamente: dirlo al padre di Roger non equivale a renderlo pubblico. Non mi piace questo esagerato desiderio di segretezza, Cinzia. Mi sembra come se dietro questa volontà si nascondesse qualcosa di più di quanto appare. Andiamo, Molly, disse Cinzia all'improvviso. Cantiamo quel duetto che ti ho insegnato. È meglio di parlare come stiamo facendo ora. Era un breve e vivace duetto francese. Molly cantò senza attenzione, con il cuore pesante, ma Cinzia lo eseguì con spirito apparente allegria. Alla fine, però, si lasciò andare a un attacco isterico e corse di sopra nella propria stanza. Molly, senza badare a null'altro, né a suo padre né alle parole di Mrs. Gibson, la seguì, trovò la porta della camera chiusa a chiave e, come sola risposta ai propri tentativi di essere ammessa a entrare, udì solo i singhiozzi e il pianto di Cinzia. Passò più di una settimana dall'avvenimento appena riportato, prima che Mr. Gibson fosse libero di andare a trovare lo Squire, ed egli sperava con tutto il cuore che molto prima di quel momento una lettera di Roger fosse giunta da Parigi per riferire a suo padre l'intera faccenda. Ma il dottore si accorse alla prima occhiata che lo Squire non era stato messo al corrente di nulla di insolito che disturbasse la sua serenità. Egli aveva un aspetto migliore di quanto aveva dimostrato per mesi. Nei suoi occhi brillava la luce della speranza, il suo volto era di un colore rubicondo e sano, riconquistato in parte grazie alle sue attività all'aperto nella sovrintendenza dei lavori, e in parte perché la felicità che di recente aveva provato in virtù delle azioni di Roger faceva scorrere il suo sangue con regolare vigore. È vero che aveva sofferto molto per la partenza del figlio, ma ogni volta che il dolore della separazione era troppo intenso, egli riempiva la sua pipa e la fumava a lungo, lentamente, rileggendo con gusto la lettera di Lord Hollingford, di cui conosceva a memoria ogni parola. Ma fingeva di avere dei dubbi su certe espressioni, così da avere una scusa per leggere un'altra volta gli elogi del ragazzo. Conclusi i convenevoli, Mr. Gibson affrontò il problema. «Ancora nessuna notizia di Roger?» «Oh, sì, ecco la sua lettera», disse lo Squire, porgendo la sua cartella di pelle nera in cui la missiva di Roger era stata infilata insieme agli altri contenuti molto eterogenei. Mr. Gibson la lesse quasi senza vedere le parole, dopo che una prima occhiata le aveva garantito che essa non conteneva alcuna allusione a Cinzia. «Vedo che non riporta un evento molto importante che gli è capitato da quando vi ha lasciato», osservò Mr. Gibson, pronunciando le prime parole che gli vennero in mente. «A un certo punto di vista, credo di commettere una violazione di confidenza, ma ho intenzione di mantenere la promessa che vi ho fatto l'ultima volta che sono stato qui. Ho scoperto che esiste qualcosa del genere che voi temete, capite? Tra lui e la mia figliastra, Cinzia Kirkpatrick. È passato da casa nostra per salutarci, nell'attesa della carrozza per Londra. L'ha trovata sola e le ha parlato. Loro non lo definiscono un fidanzamento, ma ovviamente lo è. Ridatemi la lettera», intimò lo Squire con voce forzata. Poi la rilesse, come se prima non avesse appreso bene i contenuti, come se una frase, più frasi gli fossero sfuggite. No, confermò alla fine con un sospiro. Non mi dice nulla. I ragazzi possono far finta di confidarsi con i padri, ma tante cose se le tengono per sé. Mr. Gibson pensò che lo squire, più che dispiaciuto per l'evento in sé, sembrava deluso per il fatto che la notizia non gli fosse giunta direttamente da Roger. Ma gli lasciò tempo per riflettere. Non è il primogenito, continuò lo squire parlando come tra sé, ma non è il matrimonio che avrei programmato per lui. Com'è possibile, signore? Aggiunse, voltandosi d'improvviso, avampando all'indirizzo di Mr. Gibson. Che abbiate detto l'ultima volta che siete stato qui, che non c'era niente tra i miei figli e le vostre ragazze. Insomma, tutto questo doveva già essere in corso. Temo di sì, ma io ne ero totalmente ignaro, come un bambino mai nato. Sono venuto a saperlo solo la sera della partenza di Roger, cioè una settimana fa, signore. Cosa vi ha fatto mantenere il segreto da allora? Pensavo che Roger ve lo comunicasse di persona. Questo conferma il fatto che non avete figli maschi. Più della metà della loro vita è un mistero per i padri. Ecco, prendiamo Osborne. Noi viviamo insieme, ovvero consumiamo insieme i pasti e dormiamo sotto lo stesso tetto, eppure, vabbè, la vita è come Dio l'ha fatta. Dite che non è ancora un fidanzamento? Ma mi domando cosa sto facendo. Sperare in una delusione per mio figlio? Nella pazza idea su cui si è impuntato? E proprio finché lui mi sta dando una mano? È una sciocchezza, no? Ve lo chiedo, Gibson, perché voi dovete conoscere questa ragazza. Immagino che non possieda molto denaro. Circa 30 sterline l'anno, fino a che vive sua madre e a mia discrezione. Ah, però, per fortuna non si tratta di Osborne. Dovranno aspettare. Da che famiglia proviene? Nessuno di loro nel commercio, deduco, visto che è così povera. Credo che suo padre fosse nipote di un certo Sir Gerard Kirkpatrick. La madre mi dice si tratti di un'antica dinastia di baronetti. Io non so niente di queste cose. È già qualcosa. Io qualcosina ne so di queste cose, come vi piace chiamarle. Apprezzo il sangue nobile. Mr. Gibson non poteva evitare di replicare. Ma temo che solo un ottavo del sangue di Cinzia lo sia. Non so altro delle sue parentele, oltre al fatto che suo padre era curato. È una professione. Un passo sopra il commercio, perlomeno. Quanti anni ha? 19. Bella? Sì, direi di sì. Molte persone lo pensano, ma è solo questione di gusti. Andiamo, squire, giudicate da voi. Venite a pranzo da noi quando volete. Magari io non sarò in casa, ma sua madre sarà presente e così potrete fare conoscenza con la futura moglie di vostro figlio. Questa proposta però accelerava troppo le cose. Si affidava eccessivamente alla calma con cui lo squire aveva posto quelle domande. Mr. Hamley si ritirò infatti nel suo guscio e rispose in tono molto arcigno. La futura moglie di Roger sarà più saggio quando tornerà a casa. Gianni fra i neri gli avranno messo più sale in zucca. Possibile, ma non probabile, direi, replicò Mr. Gibson. I neri non eccellono per le loro capacità di ragionamento, credo, perciò non avranno grandi possibilità di fargli cambiare idea con le argomentazioni, sempre ammesso che comprendano il linguaggio reciproco. E di certo, se Roger la pensa come me, la particolarità della loro carnagione finirà solo per fargli apprezzare di più la pelle bianca. Ma avete detto che non era un fidanzamento, grugnì lo squire. Se dovesse ripensarci, voi non lo costringerete a mantenere la parola, vero? Se desidera rompere la relazione, io di certo consiglierò a Cinzia di desiderarlo altrettanto. Questo è tutto ciò che posso dire. E non vedo alcuna ragione di parlare ancora della questione in questo momento. Vi ho riferito come stanno le cose perché vi ho promesso che l'avrei fatto se avessi notato che si stava verificando qualcosa del genere. Ma nelle presenti circostanze non possiamo né fare né disfare, possiamo solo aspettare. E prese il cappello per congedarsi. Ma lo squire era scontento. Non andate, Gibson. Non offendetevi per ciò che ho detto, anche se di certo non capisco perché dovreste offendervi. La ragazza, che tipo è? Non so cosa intendiate, rispose Mr. Gibson. Ma lo sapeva e come? Solo che era crucciato e preferì non capire. Beh, è come la vostra Molly, dolce, intelligente, con i guanti sempre a posto, le scarpe pulite, è pronta a fare tutto ciò che le si chiede come se farlo fosse la cosa che preferisce al mondo? Ora il viso di Mr. Gibson si rilassò ed egli poté comprendere tutte le frasi spezzate e significati inespressi dello squire. Tanto per cominciare è molto più bella di Molly e ha dei modi molto dolci. È sempre ben vestita, elegante e so che non ha molto denaro da spendere per i vestiti. Fa sempre ciò che le si domanda di fare e abbastanza volentieri, con risposte graziose e vivaci. Non credo di averla mai vista arrabbiata, però non so se questo dipenda dal fatto che non prende le cose tanto a cuore. E io ho notato che una certa tiepidezza dei sentimenti contribuisce molto al mantenimento del buon umore. Nel complesso, come Cinzia, ce n'è una su 100. Lo squire rifletté brevemente. La vostra moglie è una su 1.000, secondo me. Però ecco, anche lei non proviene da una grande famiglia. Immagino non abbia possibilità di ereditare molto denaro. Questo lo disse come se stesse pensando ad alta voce e senza riferirsi a Mr. Gibson, ma quest'ultimo ne fu infastidito e replicò con una certa impazienza. Bene, ma giacché Molly non c'entra niente con questa faccenda, non vedo l'utilità di fare il suo nome e di prendere in considerazione lei o la sua fortuna. No, certo che no, fece lo squire alzandosi. La mia immaginazione ha preso il volo e riconosco che stavo solo pensando che è un peccato che lei non vada bene per Osborne, ma ovviamente è fuori questione, fuori questione. Sì, ratificò Mr. Gibson. E mi scuserete, squire, ma ora devo proprio andare. Così voi potrete far prendere il volo alla vostra fantasia quanto vi pare senza interruzioni. Questa volta si ritrovò alla porta prima che lo squire lo richiamasse indietro. Si fermò lì impaziente, colpendosi le punte degli stivali con l'infrustino, in attesa che finissero le ultime interminabili parole. Dico, Gibson, siamo vecchi amici, e siete uno sciocco se prendete come un'offesa quello che dico. La madama, vostra moglie e io non ci siamo trovati d'accordo l'ultima volta che l'ho vista. Non voglio dire che fosse una sciocca, ma penso che uno di noi due lo fosse. E non ero io. Comunque passiamoci sopra. Magari potreste portare lei e questa Cinzia, che è un nome assurdo secondo me, e la piccola Molly qui a pranzo uno di questi giorni. Sono più a mio agio a casa mia e di certo sarò anche più cortese. Non c'è bisogno che parliamo di Roger, né la ragazza né io. E voi, se ci riuscite, tenete a freno la lingua di vostra moglie. Vedete, sarà una specie di complimento per le vostre nozze e nessuno dovrà intenderlo diversamente. Ricordate, nessuna allusione e nessun riferimento a Roger e a questa follia. Allora io vedrò la ragazza e potrò giudicare da me, come dite voi. Questo sarà il piano migliore. Ci sarà anche Osborne e lui si trova sempre bene a chiacchierare con le donne. A volte penso che sia per metà una donna anche lui. Spende un sacco di soldi ed è così irragionevole. Lo squire era compiaciuto per quel discorso e per le proprie idee e sorrise un poco mentre finiva di parlare. Mr. Gibson era sia felice che divertito. Anche lui sorrise per quanto ansioso di andarsene. Il giovedì successivo fu presto fissato come la data in cui Mr. Gibson avrebbe portato le sue donne a Hamley Hall. Egli pensava che tutto sommato il colloquio era andato molto meglio di quanto si fosse aspettato e si sentiva piuttosto orgoglioso dell'invito che doveva riferire a casa. Perciò la reazione di Mrs. Gibson gli risultò irritante. In quel frattempo, sin dalla sera della partenza di Roger, ella aveva continuato a considerarsi una donna oltraggiata. Che diritto avevano avuto loro di parlare come se le possibilità di una continuazione della vita di Osborne fossero infinitamente piccole, se la questione in realtà non era certa? Osborne le piaceva moltissimo, molto più di Roger, e lei avrebbe volentieri agito per assicurar lui a Cinzia, se non si fosse lasciata spaventare dalla prospettiva della vedovanza della figlia. Infatti, se Mrs. Gibson aveva mai sofferto veramente per qualcosa, era stato per la morte di Mr. Kirkpatrick e per quanto insensibile fosse sotto molti aspetti, ella deprecava di esporre intenzionalmente alla figlia lo stesso dolore che lei aveva provato. ma se solo fosse stata a corrente dell'opinione del dottor Nichols, non avrebbe mai favorito il corteggiamento da parte di Roger, mai. E poi c'era Mr. Gibson. Perché, sin dalla sera del chiarimento, era così freddo e ritroso nei suoi confronti? Lei non aveva fatto niente di male, eppure veniva trattata come se fosse caduta in disgrazia. E ora in casa era tutto così piatto. Le mancava persino la lieve eccitazione dovuta alle visite di Roger e l'osservare le sue attenzioni per Cinzia. Cinzia poi era troppo silenziosa e Molly poi era così apatica e depressa. Un umore così irritante per Mrs. Gibson proprio in quel momento che la donna sfogò sulla povera ragazza parte del suo scontento, perché da parte sua non temeva né lamentele né repliche. Capitolo 36. Diplomazia domestica. La sera che seguì la visita di Mr. Gibson allo Squire, le tre donne si trovarono in salotto da sole perché il dottore aveva fatto un lungo giro e non era ancora rientrato. Dovettero aspettarlo per cenare e per qualche tempo dopo il suo ritorno non ci fu niente da fare o da dire che non riguardasse il necessario impegno dello sfamarsi. Mr. Gibson era nel gruppo forse il più soddisfatto del lavoro compiuto nel corso della giornata. La visita allo Squire, infatti, era stato un cruccio per lui sin da quando aveva appreso come stavano le cose tra Roger e Cinzia. Non gli garbava dover andare a parlare di una storia d'amore così poco tempo dopo aver dichiarato di essere convinto che non esistesse niente di simile. Era una confessione di fallibilità che risulta sgradevole alla maggior parte degli uomini. Se lo Squire non fosse stato di natura così semplice e fiduciosa, avrebbe potuto trarre le proprie conclusioni da quell'apparente occultamento dei fatti e avrebbe dubitato della perfetta onestà di Mr. Gibson sull'argomento. Ma poiché era fatto come era fatto, non c'era pericolo che si verificasse un così ingiusto equivoco. Eppure Mr. Gibson conosceva il temperamento ardente e impetuoso con cui doveva avere a che fare e si era aspettato un linguaggio più virulento di quello che aveva effettivamente riscontrato. Inoltre il piano conclusivo per cui Cinzia, sua madre e Molly, che, come Mr. Gibson pensò tra sé e sé, sorridendo a quell'idea, di sicuro avrebbe fatto da pacificatrice e avrebbe addolcito i rapporti fra i presenti, dovevano recarsi ad Amelie Hall e fare conoscenza con lo Squire. Sembrava a Mr. Gibson un gran successo, per il raggiungimento del quale gli attribuiva non pochi meriti a se stesso. Nel complesso, egli era più allegro e più carezzevole di quanto non fosse stato per molti giorni e quando salì in salotto per qualche minuto dopo cena, prima di uscire di nuovo a vedere i suoi pazienti di città, fischiettò un poco mentre stava in piedi con la schiena rivolta verso il fuoco guardando Cinzia e pensando che, quando l'aveva descritta allo Squire, non le aveva reso giustizia. Ora, quel dolce, quasi inudibile fischiettare era per Mr. Gibson come le fusa per un gatto. Non avrebbe potuto farlo se avesse avuto in mente un caso preoccupante o quando era infastidito dalla scempiaggine umana o quando aveva fame, più di quanto avrebbe potuto librarsi in aria. Molly sapeva istintivamente tutto questo e fu felice, senza rendersene conto, non appena sentì quel tenue fischiettare che tuttavia non era musica. Ma a Mrs. Gibson questo vizio del marito non piaceva. Pensava che non fosse raffinato e neanche artistico. Poterlo almeno definire con questa bella parola avrebbe compensato la mancanza di eleganza. Stasera quel suono era particolarmente irritante per i suoi nervi, ma dalla sua conversazione con Mr. Gibson a proposito del fidanzamento di Cinzia, ella non si era sentita in una posizione sufficientemente solida ad esprimere lamentele. Mr. Gibson esordì. «Bene, Cinzia. Oggi ho visto lo Squire e gli ho confidato tutto». Cinzia alzò gli occhi rapidamente con sguardo interrogativo. Molly smise di lavorare il pizzo per prestare ascolto. Nessuno parlò. «Andrete lì giovedì per pranzo. Vi ho invitate tutte e ho promesso che ci sareste andate». Ancora nessuna replica. Naturale, forse, ma molto avvilente. «Sarai lieta, no, Cinzia?» fece Mr. Gibson. «Potrà essere un po' spaventoso, ma spero segnerà l'inizio di un rapporto felice tra voi due». «Grazie», rispose lei con uno sforzo, «ma questo non lo renderà un fatto pubblico? Desidero così tanto che non si sappia e che non se ne parli, non fino a che lui non torna a casa o a ridosso delle nozze». «Non vedo come possa renderlo pubblico», osservò Mr. Gibson. «Mia moglie va a pranzo a casa di un mio amico e porta le figlie con sé. Non c'è niente di strano in questo, giusto?» Io non sono sicura che ci andrò, interloquì Mrs. Gibson. Non sapeva perché l'avesse detto, perché aveva sempre avuto la piena intenzione di andare, ma essendosi così espressa dovette per un po' mantenersi coerente. E con un marito come il suo, di certo, avrebbe dovuto affrontare la dura necessità di escogitare una ragione per quanto aveva affermato. Ed eccola, immediata e incalzante. «Perché no?» chiese lui, volgendosi a guardarla. «Oh, perché penso che lui sarebbe prima dovuto venire a far visita a Cinzia. Io ho una certa sensibilità, non posso tollerare di pensare che mia figlia sia disprezzata a causa della sua povertà». «Sciocchezze!» ribatté Mr. Gibson. «Ti assicuro che non si intende alcuna mancanza di riguardo. Lui non desidera parlare del fidanzamento con nessuno, nemmeno con Osborne. E questo è ciò che vuoi anche tu, non è vero Cinzia? Ne ha intenzione di menzionarlo con voi quando sarete lì, ma ovviamente vuole conoscere la sua futura nuora. Se deviasse così tanto dalle sue abitudini da venire a trovarci qui... Di sicuro non voglio che venga a trovarci qui», lo interruppe Mrs. Gibson. «Non è stato molto cortese l'ultima volta che è passato». «Ma io sono quel tipo di carattere che non si rassegna alla mancanza di rispetto nei confronti delle persone che ama, solo perché non sono state favorite dalla sorte». «Va bene, allora non ci andare», esclamò Mr. Gibson provocato, ma riluttante a iniziare una lunga conversazione, specialmente perché sentiva di star perdendo la pazienza. «Tu vuoi, Cinzia?» chiese Mrs. Gibson, ansiosa di avere una scusa per cedere. Ma la figlia era totalmente consapevole del motivo di quella domanda e rispose calma. «Non particolarmente, mamma. Sono dell'idea di rifiutare l'invito». «È già stato accettato», obiettò Mr. Gibson, quasi pronto a giurare che non si sarebbe mai più mischiato in nessuna faccenda che coinvolgesse delle donne, cosa che peraltro l'avrebbe escluso per il futuro da tutti i suoi affetti. Si era lasciato commuovere da come lo Squire si era intenerito e compiaciuto per ciò che credeva avrebbe arrecato piacere ad altri e non certo da discutere. «Oh, vai, Cinzia», disse Molly, pregandola con gli occhi oltre che con le parole. «Vai, sono certa che lo Squire ti piacerà ed è un luogo così bello. E poi lui ne sarà molto deluso». «Non mi va di sacrificare la mia dignità», dichiarò Cinzia contegnosa. «Hai sentito cosa ha detto la mamma?» Fu molto valevolo da parte sua. Aveva tutte le intenzioni di accettare ed era soltanto sicura che la madre stesse già pensando all'abito per l'occasione. Ma Mr. Gibson, che per quanto medico non aveva mai imparato ad analizzare il cuore di una donna, prese tutta la lettera e si arrabbiò furiosamente, sia con Cinzia che con sua madre. Era così adirato da non osare fidarsi di parlare. Si diresse in fretta verso la porta con l'intenzione di lasciare la stanza, ma la voce di sua moglie lo fece arrestare. E la disse: «Mio caro, voi volete che ci vada? Se è così, metterò da parte i miei sentimenti personali». «Certo che voglio», sbottò lui, secco e severo, e se ne andò. «Allora, andrò», fece lei, con la voce di una vittima. Quelle parole erano rivolte a lui, che però quasi non le sentì. «Faremo venire un calesse dalla Georgia e ci procureremo una livrea per Thomas. È tanto tempo che chiedo, però Mr. Gibson non voleva. Ma in un'occasione come questa sono certa che non gli dispiacerà. Thomas siederà a cassetta e... Ma mamma, anch'io i miei sentimenti», protestò Cinzia. «Sciocchezze, bambina. Quando è stato organizzato tutto così bene, poi...» Così, il giorno prefissato, partirono. Mr. Gibson sapeva che avevano cambiato programma e che dopo tutto sarebbero andate, ma era troppo infastidito dal modo in cui sua moglie aveva reagito a un invito che a lui era sembrato molto più gentile di quanto si era aspettato, conoscendo lo Squire e le sue intenzioni a proposito del matrimonio dei figli. Perciò Mrs. Gibson non udì da parte del marito né espressione di interesse né di curiosità per quella visita, e neanche per come erano state accolte. L'indifferenza di Cinzia sul fatto che l'invito venisse accettato o meno aveva dato a Mr. Gibson un dispiacere. Egli non era avvezzo al suo modo di rapportarsi con la madre, e non capiva che gran parte della suddetta indifferenza era stata dimostrata per controbilanciare l'affettazione e i falsi sentimenti di Mrs. Gibson. Per quanto però fosse così amareggiato per la faccenda, egli era effettivamente curioso di sapere come fosse andata la cosa e colse la prima occasione di trovarsi da solo con Molly per farle delle domande sul pranzo del giorno precedente ad Amley Hall. «Dunque, dopo tutto, ci siete andate ieri a Amley?» «Sì. Pensavo che saresti venuto. Lo Squire sembrava aspettarti. All'inizio pensavo di venire, ma ho cambiato idea, come fa altra gente. Non vedo perché le donne devono avere il monopolio della volubilità. Bene, e com'è andata? È stato piacevole, suppongo, perché ieri sera sia tua madre che Cinzia erano di ottimo umore. Sì, il caro vecchio Squire aveva il suo vestito migliore e il suo miglior comportamento, ed è stato così premuroso con Cinzia. Lei era davvero amabile, ha camminato con lui, ha ascoltato tutti i suoi discorsi sul giardino e sulla fattoria. La mamma era stanca ed è rimasta in casa, così loro due si sono trovati molto d'accordo e hanno passato parecchio tempo insieme. E la mia ragazzina? Ha trotterellato al loro seguito? Oh, sì, sai che lì mi sento quasi a casa mia. E poi, ovviamente, Molly arrossì intensamente e lasciò la frase incompiuta. Tu credi che sia degna di lui? Le chiese il padre, come se avesse finito il discorso. Di Roger, papà? Oh, e chi lo è? Ma è molto dolce e molto, molto affascinante. Molto affascinante, te lo concedo. Ma in un modo o nell'altro io non la capisco. Perché vuole tutta questa segretezza? Perché non è stata più ansiosa di andare a porgere i suoi doverosi rispetti al padre di Roger? Ha accolto la proposta con freddezza, come se l'avesse esortato ad andare in chiesa. Non credo fosse freddezza. Penso di non capirla del tutto nemmeno io, ma le voglio lo stesso molto bene. Ma a me piace comprendere le persone pienamente, ma so che con le donne non è necessario. Davvero pensi che sia degna di lui? Oh, papà, disse Molly e poi si interruppe. Voleva parlare in favore di Cinzia, ma in qualche modo non riusciva a formulare alcuna replica che la soddisfacesse a questa domanda reiterata. A lui non sembrò interessasse molto di ottenere una risposta o meno, perché riprese il corso dei propri pensieri e il risultato fu che chiese a Molly se Cinzia avesse avuto notizie di Roger. Sì, mercoledì mattina. Ti ha mostrato la lettera? Ma certo che no. E poi io ho letto quella indirizzata allo Squire che diceva tutto. Ora, Cinzia, con sorpresa di Molly, le aveva detto che se voleva poteva leggere quella lettera, ma lei si era rifiutata di avvalersi di quel permesso per rispetto a Roger. Ella pensava che lui avrebbe probabilmente aperto il suo cuore a una sola persona e che non fosse giusto ascoltare, per così dire, le sue confidenze. Osborne era in casa? Domandò Mr. Gibson. Lo Squire ha detto che non pensava sarebbe tornato, ma il giovanotto è così volubile. No, era ancora via. Poi Molly si fece tutta rossa, perché le sovvenne all'improvviso che forse Osborne si trovava con la moglie, quella moglie misteriosa, della cui esistenza lei era al corrente, ma della quale sapeva così poco e di cui suo padre non sapeva niente. Mr. Gibson osservò quel rossore con angoscia. Cosa significava? Era stato già abbastanza sconcertante e problematico scoprire che uno dei preziosi figli dello Squire si era innamorato di una ragazza appartenente al ceto proibito. E cosa si sarebbe dovuto fare o dire se qualcosa del genere fosse spuntato di nuovo tra Osborne e Molly? Il dottore parlò immediatamente per disfarsi di quella nuova apprensione. Molly, sono stato colto di sorpresa da questa storia tra Cinzia e Roger Hamley. Se c'è qualcosa di più sul tappeto, dimmelo subito, onestamente e apertamente. So che è una domanda imbarazzante a cui rispondere, ma non te la farei se non avessi le mie buone ragioni. Parlando le prese la mano, lei gli rivolse i suoi occhi limpidi e sinceri, che si riempirono di lacrime mentre rispondeva. Molly non sapeva perché le venisse da piangere, forse perché non era più forte come un tempo. Se intendi dire che temi che Osborne pensi a me come Roger pensa a Cinzia, papà, ti sbagli assolutamente. Io e Osborne siamo amici, niente di più. E non potrà mai esserci, niente di più. E questo è tutto ciò che ti posso dire. È abbastanza, piccola mia. È un grande sollievo. Non voglio ancora vedermi portar via la mia Molly da nessun giovanotto. Mi mancherebbe troppo. In quel momento egli non poté fare a meno di pronunciare quelle parole dettate dal suo cuore gonfio, ma rimase sorpreso dall'affetto suscitato da quelle poche dolci espressioni. Molly gli gettò le braccia al collo e iniziò a singhiozzare amaramente, la testa posata sulla sua spalla. «Ecco, ecco», disse lui, dandole dei colpetti sulla schiena e accompagnandola verso il divano. «Così va bene. Ne vedo abbastanza di lacrime durante il giorno, lacrime versate per cause reali, da non volerne a casa, dove spero scendano per niente. Non c'è veramente un problema, è così, mia cara? Continuò, allontanandola un poco da sé per poterla guardare in viso. Lei gli sorrise attraverso le lacrime e il padre non vide l'espressione afflitta che tornò sul suo volto quando la lasciò. Non è nulla, caro papà. Adesso non c'è più niente. È un tale conforto averti tutto per me. Mi rende felice. Mr. Gibson sapeva tutto ciò che queste parole implicavano e sentì che non esisteva alcun aiuto concreto per lo stato di cose che era risultato dalla loro decisione. Era meglio per entrambi non parlarne apertamente. Così la baciò e disse: «Così va bene, cara. Ora posso lasciarti confortata. In verità sono stato anche troppo spettegolare. Esci a fare una passeggiata. Porta Cinzia con te se vuoi. Io devo andare. Arrivederci, piccola mia». Le sue parole convenzionali agirono come una stringente sui sentimenti rilassati di Molly. Egli le aveva intese proprio così. Erano la gentilezza migliore che potesse farle. Ma si allontanò da lei con una fitta dolorosa nel cuore, che egli tacitò per quanto poté, gettandosi a capofitto in problemi e preoccupazioni altrui.